ci siamo. Contento, stanotte io sono contento, sdraiato su di un pavimento, e non so nemmeno chi sono, sono ubriaco, e forse sono anche stonato. Oh no. La 500 è l'incarnazione di un mio sentimento. Si mette in moto solo se mi sento. Se c'è whisky c'è feeling e c'è un godimento. Sono ubriaco e forse sono anche stonato, o no? Oggi alle 6 mi sono sparato 40 GV. Tanto pagava quello sconvolto di Fritz. Portafoglio pieno di soldi, ma adesso qui mi sento solo ogni tanto anche un blues. Yeah. Armando Casaroli. E tu chi sei? Dammi da bere, vuoi dirmi chi sei? E non so nemmeno come ci sono arrivato in questo posto pieno di ombre che mi confonde, dove ogni tanto si sente anche un blues. Dove ogni tanto si sente anche un blues. Dove ogni tanto si sente anche un blues. Everybody take it easy.